Sto per alzarmi e squilla il telefono. È il mio nuovo capo che vuole parlarmi. Mi indicano un ufficio. Ci vado. Busso e dentro. Trovo un tale che mi guarda e mi dice: credo ci sia stato un imperdonabile errore. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:06, oggi è martedì 10 maggio del 2011, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Quella sera, nell'intervallo di una partita, sono uscito e sono andato a prendere una pizza. Non so perché, però non mi fido della pizza da asporto. Mi considero il miglior consegnatore delle mie pizze. Di solito aspetto la fine del primo tempo e poi vado dal pizzaiolo egiziano vicino a casa mia. Si chiama Samir, come il ragazzo tunisino che ho ospitato in casa per un po'. Samir ha un figlio di 18 anni che si chiama Alberto e ormai ha preso ufficialmente il suo posto, il posto del padre davanti al forno della pizzeria. È anche più bravo del padre, le pizze, se sono mangiate entro i canonici 5 minuti, sono proprio buone. Quella sera sono entrato in pizzeria e sono andato verso il bancone. Ho chiesto una 4 formaggi rossa, perché la domenica mi piace sempre stare un po' leggero. Solo che appena sono entrato, Alberto mi ha guardato e mi ha detto: cos'è, non saluti neanche qui? C'è sempre un momento di straniamento quando ti scambiano per un'altra persona, perché non è che lo realizzi subito. Ti serve il tempo per processare l'informazione prima, quella che ti è appena arrivata, per capire perché ti hanno detto quella cosa. Perché la prima cosa che ti viene da pensare è: boh, se non saluto qui significa che probabilmente non devo averlo salutato anche da qualche altra parte, in qualche altro posto. Poi pensi che forse sia sbagliato, ma solo dopo. Dopo pensi che ti ha scambiato per qualcun altro. E quindi ti guardi in giro come a dire: guarda che forse non sono io, eh. Solo che lui lì ha ricaricato. A scuola, ieri, all'intervallo, non mi hai neanche salutato. Vabbè, insomma, per farla corta, Alberto mi aveva scambiato per un'altra persona. Mi aveva preso per il tizio che vende i panini all'intervallo nell'atrio della sua scuola. Risolto l'inghippo, siamo andati oltre. Succede però, succede di essere scambiati per un'altra persona. Di solito succede con qualcuno che è famoso, però lì di solito siamo già preparati, perché ce l'hanno già fatto notare, più di una volta. E la somiglianza con l'attore o con il calciatore, o il politico ormai è dichiarata, la sappiamo. Ma quando ci scambiano per un vicino di casa, per il loro assicuratore o per il venditore di panini della scuola, ecco, tutto è molto più straniante. Non so se vi è mai successo, se qualcuno vi ha salutato come se vi conoscesse, se vi hanno fatto una battuta che non avete capito oppure dei riferimenti che non conoscevate. Se l'hanno fatto, però, può capitare che ne abbiate approfittato. Magari avete tratto vantaggio da quella somiglianza con qualcuno che nemmeno sapevate che esistesse, o magari no. Ecco, comunque vada, oggi io sono qui. Il numero per chiamare se vi hanno scambiati per qualcun altro e ne avete tratto vantaggio, ma anche no, è 800240024, sempre quello, oppure 349-238-6666. Però io oggi vorrei cominciare con delle scuse, perché qualche tempo fa, non mi ricordo più nemmeno quanto, parlando di un argomento simile, era non questo, non quando vi hanno scambiato per qualcun altro, ma quando voi vi eravate fatti scambiare per qualcun altro, aveva chiamato un ascoltatore da Roma che mi aveva raccontato la storia di quando lui si era fatto passare per il fratello gemello, era uscito con la ragazza di cui era innamorato il fratello o che era innamorato del fratello, non ricordo bene la storia, erano usciti insieme e poi questa donna si erano sposati, mi pare, avevano avuto dei figli, mi pare gemelli, insomma, era una bellissima storia, era talmente bella che mentre me la raccontava a me sembrava poco credibile, però proprio perché la realtà supera sempre la fantasia, io dissi: guarda, va bene, ti ringrazio, mi sa che questa storia te la sei inventata. Lui, quando ha messo giù il telefono, ha chiamato molto arrabbiato Rosa al centralino dicendo: ardi a Matteo che non solo è tutto vero, ma che se viene a Roma andiamo a cena insieme, però lui me la offre perché questa storia è vera. Quindi volevo chiedere scusa a lui e dire che sono pronto per uscire a cena e offrire la pizza a te, a tuo fratello gemello, alla moglie di tuo fratello, per la quale tu ti hai fatto scambiare per il fratello gemello, ai figli nati da questa meravigliosa storia. 800240024, perché oggi si parla invece di altro, si parla di quando vi hanno scambiato per qualcun altro. Vi faccio degli esempi. Simone, Questi arrivano da Facebook, ovviamente. Un gelataio a Follonica mi parlava di serate in discoteca mai avute. Alla fine mi offriva pure il gelato. Non ho mai capito perché mi scambiasse. Qui ci ha guadagnato un gelato. Nicoletta, su una spiaggia in Amazzonia, una ragazza mi viene incontro chiamandomi Sue Ellen. Mi saluta e mi abbraccia. Solo dopo averle assicurato che stavo benissimo, sono riuscito a dirle che ero italiana. E insisteva. C'è rimasta pure male. Ecco perché credo che l'attrice di Sue Ellen fosse malata di cancro. Mi pare di ricordare. E quindi ha dovuto convincerla che stava anche bene. Tra l'altro io sono andato a vedere, di solito non lo dico il cognome, però andate a vedere il profilo di Nicoletta Germani. Nicoletta, effettivamente hai qualcosa di Sue Ellen. Non so che cosa, però secondo me su una spiaggia dell'Amazzonia con qualche sostanza in corpo anch'io probabilmente potrei scambiarti per lei. Nicoletta Germani, andate a vederla sul profilo, poi magari dopo lo carichiamo meglio sul profilo Facebook. Andrea, all'università un docente all'esame mi scambiò per un dottorando, mentre io ero solo nel corso di laurea. Feci un esame difficilissimo. Non riuscivo a capire perché mi facesse domande così dettagliate. Quando ho cominciato a cedere verso la fine dell'esame, lui mi ha detto: ma ste cose un dottorando le dovrebbe sapere. Allora sono sbiancato e gli ho detto: ma guardi, io non sono un dottorando, sono XY del corso tal dei tali, che ho fatto con lei in quest'anno accademico. Il professore, un po' imbarazzato e un po' sorpreso, mi ha detto: in tal caso l'esame è andato benissimo. 30 e lode. 800240024 349-238-6666, ne leggo altri due. Mary che scrive: ciao Matteo, sono a Dubai per lavoro e da due giorni con degli amici andiamo in giro per locali e mi presentano come Rafa Nadal. Oggi pomeriggio sarò la guest star durante una presentazione tecnica in una fiera. Quasi quasi potrei farlo come lavoro, il sosia di Nadal. E in risposta Mario gli scrive: finalmente ho trovato il sosia di Nadal, ottimo, visto che da anni sono bollato come il sosia di Federer. E questo, in questo caso devo dire, Facebook aiuterà molto oggi, perché perché né l'uno né l'altro sembrano i soldi di Nadal, di Federer, però da lontano, o ripeto, strane sostanze in corpo. 349-238-6666, 800240024, oggi si parla di scambi di persona per questo motivo qui. Il dottor Salvati, lo psicologo della porta accanto, sabato ha dimenticato da me un raccoglitore che contiene storie scritte dai suoi pazienti. Non sono storie tragiche o chissà cosa. Fa parte del suo meccanismo di terapia. Lui fa scrivere storie che raccontino un pezzo di sé. Serve a capire meglio le cose. È un bellissimo sistema per scavare in se stessi. Lo si fa in maniera creativa e senza menarsela troppo. Quell'oggetto ha passato un po' di ore sul mio tavolo senza che me ne accorgessi. E quando ho provato a restituirlo, il dottore era già andato via per il weekend. Non ho il suo telefono, quindi non ho potuto fare altro che tenermelo in casa. Ora, mettere un amante del cioccolato di fronte a una sacher torte e dirgli che non può mangiarla è una tortura peggiore di quella che stavo subendo io. Un libro pieno di storie vere. Una specie di tesoro di racconti che aspettavano solo di essere letti. E io non potevo farlo. Sì, perché quel faldone non mi era stato regalato. Era stato dimenticato. E sarei stato un bastardo ad aprirlo. Oltretutto ci sono mille questioni di tutela sul segreto professionale, storie del genere, quindi avrei messo pure in difficoltà Salvati. Quindi io ho passato tutto sabato a nascondere alla mia stessa vista quel coloratissimo oggetto del desiderio. Ma poi è arrivata la notte. E la notte, si sa, è amica degli amanti, no? È il rifugio dei depressi. È terreno fertile per gli scrittori. La notte è il nascondiglio dei malviventi. È il paradiso dei gatti randagi in cerca di rifiuti. È il momento del riposo e del ristoro. Ma soprattutto la notte è l'incubo degli insonni. E io, che di questi tempi faccio un po' fatica ad addormentarmi, sabato notte avevo finito i libri da leggere. Il libro delle storie dei pazienti del dottor Salvati mi guardava. Mi guardava dalla sedia dove l'avevo nascosto. E a un certo punto ho pensato che io, quel libro lì, dovevo leggerlo. L'ho preso, l'ho sfogliato come fosse una Bibbia. Perché era pieno di vita, a piccole dosi. Una sorta di finger food dell'esistenza. Una meraviglia, insomma, le mille e una notte. Non sapevo se mi avrebbe conciliato il sonno dei giusti, ma di certo mi avrebbe narrato storie che non avrei mai conosciuto, perché nessuno è così forte da raccontarsi, se non al proprio analista o al proprio confessore. Nemmeno a se stesso. Erano più che altro storie di vicende apparentemente insignificanti, piccoli fatti di vita di tutti i giorni. Ma ognuno doveva seguire una postilla che doveva descrivere il motivo per cui quel racconto diceva qualcosa di chi l'aveva scritto. E quella frase finale dava sempre senso a tutto. Storie di amore, di lavoro, di infanzia, di avvenimenti che cambiano la vita ma anche no. Storie di famiglia, di crescita, di dolori e di gioie. Erano storie e io, oggi, ve ne racconterò una. Shit's scared of a tiny flame. Even the trees call your name. And the baboon in the cage at the mercy of scientists. He is brave and he's showing his teeth to resist. And despite all the drugs that they are using to tame him, he's a shouting your name. La storia che ho letto sabato notte, prima di addormentarmi, l'aveva scritta Paolo. Che è un nome di fantasia, perché va bene farsi gli affari degli altri, ma almeno non metterli in piazza. Ecco, Paolo ha scritto così. Era novembre, io dovevo cercare lavoro. Mi sono messo nelle mani di un'agenzia interinale. E anche se sono diplomato e quasi laureato, mi sono dato disponibile per ogni tipo di mestiere. Anche di fatica. Anche consegnare i quotidiani. Io in realtà voglio fare il regista e ho anche un certo talento, me lo dicono tutti i miei compagni di corso, anche la mia fidanzata. Un mio corto è stato selezionato per un premio che si svolge a Bellinzona, molto prestigioso. Ma non sono ricco di famiglia e non voglio pesare sui miei. Ormai ho 30 anni. Quindi, quando mi arriva la telefonata dell'agenzia interinale che mi dice che c'è un posto per un mese negli uffici di un Corriere Espresso a San Donato, sono contento. È un po' scomodo, ma è lavoro. Quindi accetto volentieri. Non è che mi paghino granché, ma un'esperienza in un ufficio non l'ho mai fatta e secondo me può essere utile anche alla mia carriera di regista. E poi finalmente un po' di soldi. Insomma, sono felice e mi presento all'appuntamento proprio il 10 di novembre, me lo ricordo benissimo. Arrivo lì la mattina presto perché avevo fatto male i calcoli, in fondo non ci vuole poi così tanto per arrivarci da casa mia. Arrivo sul posto di lavoro e mi presento. I miei nuovi colleghi mi aspettano e sono abbastanza gentili. Mi mostrano la scrivania, mi fanno vedere grosso modo quale sarà il mio lavoro. Il capo, dicono, è una persona gentile, passa più tardi. Dunque, quello che devo fare è copiare su un foglio Excel gli indirizzi che ci sono sulle buste che sono tornate indietro. Specificare la data e il motivo per cui non è stata consegnata. Non mi pare un gran lavoro, però non posso farlo schizzinoso. Loro fanno cose differenti, usano il telefono, hanno la chiavetta per prendere il caffè. Si vede che sono un gruppo, insomma. Io nel dubbio comincio a lavorare sul computer che mi hanno fatto vedere. Per le pratiche amministrative c'è tempo. Dopo un paio d'ore avevo trascritto un centinaio di nomi ed ero abbastanza soddisfatto, pronto per una pausa. Sto per alzarmi e squilla il telefono. È il mio nuovo capo, vuole parlarmi. Mi indicano un ufficio e ci vado. Busso. Entro e trovo un tale che mi guarda e mi dice: credo che ci sia stato un imperdonabile errore. Insomma, per farla breve, quelli dell'agenzia interinale avevano mandato me, ma intendevano mandare un altro. Insomma, una specie di caso di omonimia, una roba del genere. Il mio nome assomigliava moltissimo a quello del candidato ideale per quel prestigioso posto di lavoro. E c'era stata un po' di confusione. Quindi io non potevo nemmeno essere licenziato perché non ero mai stato assunto. Dovevo andarmene. Tutti erano un po' dispiaciuti perché io potevo essermi illuso, ma io, mentre me ne andavo dal mestiere che non era il mio, ero abbastanza felice. Avevo passato una bella mattinata, avevo conosciuto persone nuove e avevo un sacco di ferie da godere. Ma c'è un ma, ovviamente, in tutta questa storia. E il ma è che io non ne sono il protagonista. Cioè, era come se fossi su una macchina ma senza guidarla. Ero il passeggero della mia stessa vita. E questa storia racconta di me perché io lascio sempre che le cose accadano come vogliono e che gli altri decidano al posto mio. Ecco, ma io in fondo non credo che dovrebbe essere così. Quando ho finito di leggere la storia di Paolo, non ho pensato a niente. Ho solo spento la luce e mi sono addormentato. E perché oggi ve la racconto? Così, perché le storie degli altri rendono la nostra vita un po' migliore. Sunny day, oh yeah. I got a knock on a candle. I love to take a fall. Ciao nonna. Ciao. Volevo farti gli auguri. Ancora? Ma sai, ci tengo, te li ho già fatti prima, volevo farteli adesso. Ho capito, va bene, grazie. Perché essendo 90 anni mi sembra giusto farli più di una volta, no? Oh mamma mia, non farmi ricordare quell'età. 90? 90, nonna, 90, 90 sì, anni, sì. Hai 90 anni, nonna, te lo sto ricordando, 90 anni. Senti, scusa, un'ultima cosa, 90, quindi tu sei del 1921? Sì. Ti sei dal 21? Dal 21, già. Senti, che segno sei? Che segno sei? Il toro. Del toro, ma sei anche l'ascendente? Non lo so, quello lì. È importante l'ascendente, nonna, perché dall'ascendente si capiscono alcuni sviluppi del carattere. Ho capito, ma il carattere è brutto. Ma come? Ma nonna, non si dice così. Devi saperti vendere meglio, devi dire che hai un ottimo carattere. Ma come faccio? Senti, dimmi, e poi ti saluto, dimmi fino a che età vorresti arrivare tu. No! Mi spaventa quando Scotti la sera dice 102, 105 e io dico mamma mia, no, se fosse per me, guarda, per me quest'età qui, anche se grazie a Dio sto bene perché ci sono gente peggio di me. Quello sempre. Però ma, mi sembrano troppo. Dai, facciamo così allora, oggi ti faccio gli auguri in diretta, nonna. Davvero? Sì, sì, sì, magari faccio anche sentire questa telefonata, cosa dici? Vabbè, falla sentire. Tanto non hai detto niente di compromettente. No, meno male. Brava. Perché tu sei un po' falsetto e bisogna sempre che sto attento quando parlo con te. Ciao nonna. Ciao. Auguri. Ciao. Grazie Matteo. Me lo passa. Ecco. Sei lì? Sì, però sto registrando, mamma, quindi ti sentono. Scusa. Tiziano, Rudy. Figurati. Ma poi la metti in onda? Sì, adesso la mando in onda. Ciao. Ti salutano tutti? Sì, ciao. La Daudenza, la Franca, il Carlo, ciao. Tutti proprio. Tutti presenti di solito. 800 24 0024, 349 238 6666. Persone scambiate per qualcun altro. Emilio mi scrive: io invece scambiai per strada una persona per un'altra. Avendo un appuntamento con lui, gli andai dietro e gli diedi uno scozzettone dietro la nuca fortissimo. Quando si girò mi accorsi che non era lui. Vi lascio immaginare la vergogna. E effettivamente lo posso immaginare. Poi c'è un messaggio invece di Davide che mi dice: tanto non avrai il coraggio di leggere questo messaggio. E dice: a dire bugie ci si dimentica. Non lo aveva lasciato venerdì sera raccoglitore il dottor Salvati? Sì, venerdì sera. E io cosa ho detto? Sabato oggi? Ogni volta che entro in questo locale notturno di Treviso c'è il barista che mi saluta con grande gioia e stupore, come se fossimo grandi amici da sempre, facendomi pagare metà delle bevande che ordino. Non ho ancora capito se è omosessuale o se è convinto che io sia chissà chi. E poi un ultimo, Enrico, che dice: Matteo, se uno non hai in Facebook è tagliato fuori dal programma? Non ti è venuto in mente che forse elimini molti degli ascoltatori? Beh, no Enrico, semplicemente se uno non è in Facebook si sente quello che racconto, se uno ha Facebook va a vedere quella che assomiglia a su Ellen e che anch'io scambierei per lei su una spiaggia caraibica. Però Marcello mi ha scritto: tornato da Marsalam abbronzatissimo, sono stato scambiato per un musulmano e cazziato da un egiziano perché fumavo in pubblico durante il Ramadan. Pronto Marcello? Pronto Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Te? Senti, io bene, grazie. Mi spieghi com'è che ti ha fatto un cazziatone in egiziano? Infatti non capivo che cosa dicesse all'inizio. Ero abbronzatissimo, scuro. Io sono meridionale, quindi già di pelle abbastanza. Siamo tutti meridionali, Marcello. Lascia stare. No. Sì, dentro siamo tutti. C'era un mio amico siciliano che diceva: sai qual è la differenza tra i siciliani e il resto dell'Italia? È che no, non me la ricordo più. Oh mamma mia! No, perché era diversa. Era che vabbè, me la faccio venire in mente. Scusami, Marcello. Niente, allora ero fuori che aspettavo mia moglie Titti che usciva dal supermercato e si è avvicinato questo egiziano e ha incominciato a dirmi su, insomma, abbastanza arrabbiato, insomma, e se non capivo. Dopo, quando gli ho detto in italiano: ma scusa, cosa mi fa? No, italiano. Dopo ho capito che praticamente era il periodo di Ramadan e io ero fuori al supermercato che fumavo e lui pensava che fosse un egiziano. Quindi hai capito solo italiano e Ramadan più o meno. Io non sapevo neanche che durante il Ramadan non si potesse neanche fumare, insomma, altrimenti figura. Non fumare. Certo, Marcello, solo di notte, anche fumare. Marcello, grazie mille. Niente, ciao, buona giornata. Bocca al lupo, ciao. Crepi, speriamo. Me lo faccio venire in mente sta roba sui siciliani, che siamo tutti siciliani, solo che metà lo sai, metà no. È una roba del genere. La borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo su un belvedere. C'è una vista molto bella su una costa, una baia direi. È sera o forse l'alba, non lo so. Il cielo è copertissimo, ci sono nubi grigie con qualche spiraglio di luce. E sotto c'è un mare piuttosto placido, delle luci delle strade di una cittadina lungo il mare. Direi che così, a occhio e croce, può essere l'Adriatico. Marco Di Salvatore, 33 anni, la costa di Trabocchi in Abruzzo, tra spiagge, golfi e calette nascoste. Io sono qui. Io sono qui, @radio24.it, per continuare a mandare le vostre fotografie, oppure il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, Io sono qui. Non scrivetemi più se non ho Facebook, come faccio, perché semplicemente vi ascoltate il programma, oppure vi aprite sto benedetto profilo Facebook, ci vuole veramente poco, giusto Rudy? Tra l'altro, visto che tra due giorni siamo al Salone del Libro e visto che abbiamo raggiunto quota 163 o 67, Tiziano? 63. Sono arrivati 163 racconti. Ce l'aspettavamo? No, non credo. Sono arrivati 163 racconti e ci piacerebbe arrivare a giovedì con 200. Questo vuol dire che almeno 37 di voi tra oggi e domani devono mettersi lì e scriverli. Se invece quei 37 arrivano direttamente al Salone del Libro giovedì, è meglio ancora. Io sono qui, @radio24.it, per spedirli, oppure il padiglione 2 del Lingotto Fiere di Torino, alle 16 puntuali. Anzi, fate una cosa, venite un po' prima, venite verso le 15.30, che ci scaldiamo un po'. Detta così è orribile, però insomma, perché bisogna dire delle cose con le persone che verranno al salone. Quindi a giovedì 12 alle 15.30 facciamo, dai, appuntamento alle 15.30, padiglione 2, stand di Radio 24. Margherita viene scambiata 1000 volte per una tizia che canta qui in Brianza, mi dice. Dai, canta, lo so che sei brava. Se erano carini trovavo il modo per schivare il canto e fingermi lei, se brutti cantavo e bastavano due note per far capire che no, non ero io. Più che altro mi domando chi è una tipa che canta in Brianza, e solo in Brianza, tra l'altro. Evo, ho iniziato a salutare un tipo che mi capitava di incontrare spesso. Ha iniziato lui, salutandomi da lontano le prime 6-7 volte, finché non ho iniziato a rispondergli, quantomeno per buona educazione. Poi è sparito, chissà chi credeva che fossi. Bella questa cosa, che uno da lontano ti saluta, fa andare la mano, e tu giustamente, ehi, ciao, sai, quelli che grandissimo, ciao, come va, mitico, grande, non si ricordi, né un nome né la faccia, ehi, bello, ciao, come va, insomma. Alessandro, in passato, quando andavo in qualche aeroporto, mi scambiavano per Chris Martin, soprattutto ragazze che tutte emozionate venivano a chiedermi l'autografo. Ma Chris Martin è il cantante dei Coldplay, è lui, perfetto, benissimo, ci eravamo arrivati. 800240024, andiamo da Sandro da Torino, perché Sandro mi ha scritto un messaggio abbastanza inquietante oggi. Pronto Sandro? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Io bene, te? Bene, grazie. Grazie per essere qui. Allora, tu mi hai scritto sul profilo Facebook che in Inghilterra ti hanno scambiato per un ladro e ti sei fatto 4 ore in cella. Esatto. Com'è successo? Guarda, te la faccio breve. Praticamente 20 anni fa io abitavo e lavoravo in Inghilterra, no? Una mattina verso le 6 mi bussano alla porta di casa, io apro, c'erano 6 poliziotti e il primo mi dice: guarda che tu sei in arresto perché hai tentato di rapinare una banca, vestiti, e mi portano giù a una stazione di polizia, no? E arrivo, impronte digitali, foto, una cosa e l'altra, 4 ore dopo arriva un avvocato e dice: adesso può cominciare il tuo interrogatorio. Arriva un detective e mi dice: io ho visto la videocassetta di una banca dove c'era uno che sei tu, che sta cercando di rapinare la banca, io sono sicuro che quello lì sei tu. Io sono rimasto... Come ne sei uscito, scusami Sandro? Allora, praticamente, per farla breve, il mio avvocato si è fatto mandare la videocassetta di questa banca. E io ci sono rimasto di merda, cioè se c'era un sosia al prego, mondo prego. È quello lì, io ho guardato, era alto uguale, cioè aveva i capelli uguali, il pizzetto come il mio, gli occhiali uguale, Matteo, ti giuro, anche l'avvocato mi guardava la televisione. Tu stavi per dire: guardate, avete ragione, io probabilmente ero sonnambulo. Senti, ma tu avevi un alibi, una copertura, buonanotte, stavi facendo qualcos'altro? Quel giorno lì no. Ero a casa quel giorno e quell'ora ero a casa. Praticamente poi guardando il video ho visto che questo qua scriveva con la destra, io invece sono mancino, dietro la testa c'aveva una grossa cicatrice. Siamo andati avanti 6 mesi, tra perizie calligrafiche e il giudice, una cosa all'altra, poi alla fine hanno ammesso che non ero io, che potevo... Ma ti hanno risarcito in qualche modo? No, niente. Niente? Semplicemente a posto? Sì, praticamente dopo 4 ore che mi sono fatto in cella, il resto del tempo sono stato libero in Inghilterra, non potevo lasciare il paese, però... Giuseppe, grazie mille nonostante la disavventura, buona giornata. Ciao Matteo. Ciao, grazie. Andiamo da Giuseppe da Roma. Pronto Giuseppe? Pronto, sono io Giuseppe. Direi che sei tu. Buonasera, se non ti hanno scambiato per nessun altro. Ti hanno scambiato per un malavitoso? Non lo so, perché ero nel 97 a Perugia per trascorrere la fine anno, no? L'ultimo dell'anno, e non eravamo un ristorante, non avevamo prenotato nessuno, eravamo 4 coppie. E succede che vai per ristorante, no, è tutto pieno, devi prenotare, niente. All'ultimo c'era un ristorante, un buco, dove scendono 4 scalini, mi affaccio sull'uscio per beccare l'ultimo no, mi vede il proprietario, stava seduto alla cassa, una persona abbastanza grande di età, e mi fa: ah, siete arrivati, benvenuti, e mi abbraccia, e mi baci, mi dà 3 baci, 3, non 2, non 4, mi dà 3 baci, chiama i camerieri, dice ai camerieri: guarda, sistemate il tavolo di quello e aprite, e c'era una tenda che copriva il tavolo, che era sopraelevato dagli altri tavoli, tutto fatto in legno, e c'erano sti 8 posti qua ad aspettare noi. Ma come hai capito che pensavano fossi un malavitoso? E perché non ho pagato io non ho pagato, ero tutto già prenotato, quello mi ha baciato. E non è arrivato poi il tizio? No, mi si prostrava, però la paura nostra, ci stavamo cagando sotto, scusa per la parola. Prego, hai 2. Siccome arriva qualcuno e dice, i tavoli sono i nostri, perché la bella cosa è non abbiamo pagato. L'ho capito Giuseppe. E noi abbiamo fatto i grandi, diciamo, i grandi, i grossi, i 100 di mancia. Va bene Giuseppe, non hai mai scoperto chi fosse questo personaggio? No, non posso averlo scoperto. Meglio così, forse è meglio così, sì, penso pure io, lo penso. Grazie Giuseppe, buona giornata. A te, grazie. Ciao. Grazie. Alessandro, sono informatore farmaceutico, venivo scambiato sempre per un collega, petulante e scortese. In uno studio medico mi è stato addirittura chiesto di uscire, poi una volta chiedendo malinteso è cambiato tutto. Oggi chiudiamo con uno dei racconti che sono arrivati sempre per l'operazione Il racconto che mi racconta, a Io sono qui, @radio24.it. Si intitola L'attesa dello squillo. Non so se hai presente quei momenti in cui ti trovi sola sul divano, seduta come se fossi in punizione, ma non hai fatto nulla di cui pentirti. Ecco, immaginami in quel modo, vestita di tutto punto che aspetto il classico squillo che vorrebbe significare esci che stiamo arrivando. Distrutta perché ho lavato il mio buco di casa e ho steso quei 4 panni che ho sporcato durante la settimana. Mi guardo intorno e cosa vedo? Naturalmente un batuffolo di polvere, che è lì a ricordarmi che per quanto mi possa sforzare, questa casa non sarà mai pulita. E cosa percepisco nell'aria? L'odore dei vestiti che pervade il mio unico piccolo ambiente soppalcato. Penserai che dovrei essere contenta di sentire il profumo di pulito, e invece no. Sai perché? Perché anche se utilizzo lo stesso maledettissimo detersivo di mia madre, tutto quello che lavo, a partire dalle lenzuola fino ad arrivare alle mutandine coi cuoricini, non ha l'odore che caratterizza i suoi. E ancora non riesco a capire perché. Forse dipende dal fatto che lei, a casa nostra, può stenderli fuori. E se anche li stende dentro, alla fine l'odore può diffondersi per metri e metri di appartamento e non stagnare come invece succede con i miei. Sì, magari è questo il motivo. O forse no. Forse è semplicemente sta nel fatto che lei fa lavatrici intelligenti. Io sono qui, @radio24.it, per mandare il racconto che vi racconta, un piccolo episodio della vostra vita che in qualche modo racconta con voi. Il mio lo racconto giovedì 12 al Salone del Libro, tra 2 giorni, in diretta. Grazie a Fabio Rudi Cantadori, grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e a Stefano D'Andrea. Non ho capito, non mi ricordo più qual era la storia, che siamo tutti siciliani, solo che metà lo sa e metà no, però abbiamo scoperto qual è la cantante brianzola per cui scambiano Margherita. Andrea scrive: sarà la Giusy Mercuri, o Giusy Mercuri, che canta sempre nelle sagre di paese brianzole. Ciao e grazie, domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?